Non sai su che riflettere. Chiedimi perché, perché non sai se devi smettere. Chiedimi perché, perché poi intorno non c'è niente. Chiedimi perché, perché il tempo ce l'ho in mente. Chiedimi perché, perché non sai su che riflettere. Chiedimi perché, perché non sai se devi smettere. Chiedimi perché, perché poi intorno non c'è niente. Chiedimi perché, perché il tempo ce l'ho in mente. Originale, un'altra volta se ritorna sopra i beat. Tempi troppo lofi per il rap da intestiva. Non puoi fermare il flusso K groove che arriva diretto nelle menti di chi non capiva. Fammi sapere quanto vale la tua rima, perché è tempo di magra che sei stata in cima. Ho rap pregiato, custodito giù in cantina, perché quando c'è rap sento l'adrenalina. E vinco la partita anche restando giù in panchina. Quanti cazzo di puristi adesso stanno in copertina. Quanti scemi del villaggio adesso regnano la scena. Quante produzioni le ricordo a malapena. Mi chiudo nel mio ambito restando nel mio groove, pompando sangue acido ascoltando i vostri loop, cercando intorno a me qualcosa che sia compatibile. Tornando sui miei passi credo che non sia possibile. Chiedimi perché, perché non sai su che riflettere. Chiedimi perché, perché non sai se devi smettere. Chiedimi perché, perché poi intorno non c'è niente. Chiedimi perché, perché il tempo ce l'ho in mente. Chiedimi perché, perché non sai su che riflettere. Chiedimi perché, perché non sai se devi smettere. Chiedimi perché, perché poi intorno non c'è niente. Chiedimi perché, perché il tempo ce l'ho in mente. Quindi lascio spazio passivo, poi non cerchi inizio. Ci sono cose a cui non serve dare inizio. Ho perso tanta gente da abbonarmi a chi l'ha visto. Scremato troppa merda, nascondi in questo fischio. Tu chiedimi perché se poi mi vedi strano. Tu chiedimi perché se poi non ti sembra chiaro. Quindi adesso so che tutto quello che io vedo è il riflesso delle colpe che riemergono da dietro. Non suonano campane se sono fatte di vetro. Chi prende da altri poi riprende tutto al metro. Nel metro di misura tu non puoi truccarlo. Tu manchi di esperienza e radici sull'asfalto. Tu manchi di coraggio e non venire a fare il saggio. Tappa dentro a tutti dall'assaggio. Che oggi lo faccio e poi magari ci mangio. Abbondanti abbuffate col mangime dei porci. Chiedimi perché, perché non sai su che riflettere. Chiedimi perché, perché non sai se devi smettere. Chiedimi perché, perché poi intorno non c'è niente. Chiedimi perché, perché il tempo ce l'ho in mente. Chiedimi perché, perché non sai su che riflettere. Chiedimi perché, perché non sai se devi smettere. Chiedimi perché, perché poi intorno non c'è niente. Chiedimi perché, perché il tempo ce l'ho in mente. Le conseguenze sono rinchiuse intorno a troppe scuse. Ispiranti per le muse che poi restano deluse. Ho tonso e confuse in questa strada che si chiude. Se perdo a volte il lume perché resto nel parfume. Quindi poi ne ridi allora godi di quest'attimo. Io vivo per il battito, tu vivi dentro l'attico. Io vivo ogni attimo, tu vivi sul già fatto. Dimmi poi come cazzone esci, ho combatto. Ma persone che poi restano nell'ambito ma guardano. Persone che si aggrappano sul morbido e lo mangiano. Questa è la situazione, così che me la vivo. Ma tutti i giorni sento addosso il vostro cazzo di respiro. Chiedimi perché, perché non sai su che riflettere. Chiedimi perché, perché non sai se devi smettere. Chiedimi perché, perché poi intorno non c'è niente. Chiedimi perché, perché il tempo ce l'ho in mente. Chiedimi perché, perché non sai su che riflettere. Chiedimi perché, perché non sai se devi smettere. Chiedimi perché, perché poi intorno non c'è niente. Chiedimi perché, perché il tempo ce l'ho in mente. Ce l'ho in mente, stronzi.